Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, 22.04, Rockway, un'ennesima puntata di Rockway, stasera con cantautore d'origine campana, però abita a Bologna da una vita. Sì, buonasera a buonasera tutti. Buonasera a Berner. Buonasera. Stasera abbiamo in regia Agostino, però che sovrintende c'è sempre Michele, lo so Michele sei là, Roberto che cura le telecamere, ed Alberto Prisco che ci ha dato una mano per l'organizzazione del concerto. Sì. Come va Berner? Ma non c'è male. Non c'è male. Diciamo che l'inverno ha colpito. È colpito l'inverno. Però, insomma. Questo è il tuo primo disco ufficiale? Sì, sì. È il primo disco pubblicato. Pubblicato, diciamo. Esattamente. Hai fatto tutto te? Sì, non proprio tutto, nel senso che è un progetto solista. Chiaramente ho lavorato insieme a una band. Una band, chiaramente nel disco ci sono gli altri musicisti. E ho lavorato insieme anche appunto a uno studio di registrazione con l'ausilio appunto anche di un supporto in studio, certamente una produzione che è stato quello di Giacomo Fiorenza, e quindi però diciamo che la carretta diciamo io ho inquadrato in questa maniera una prima, sì. Un primo momento cantautorale, un secondo momento di intrattenimento. Perché intrattenimento? Perché tu hai girato l'Europa per un sacco di tempo, hai girato con la chitarra, hai conosciuto tante piazze, tante cose da scoprire, e poi un momento pop, i tre momenti che possiamo individuare in questo nuovo album che tu hai fatto. Sei d'accordo con questa visione musicale del discorso? Guarda, è stata argomentata così bene che... No, in realtà era proprio quello che volevo fare, un po' a mescolare un po' le carte, diciamo, era una delle mie intenzioni. Sì, l'esperienza a cui facevi riferimento, sì, per questo vagabondare positivo è stato diversi anni fa, diciamo, è stato un momento di formazione iniziale, certamente mi ha fatto avere questo approccio con la musica di intrattenimento, certamente. Comunque devi guadagnarti l'attenzione. È una cosa che anche la pagnotta. Anche la pagnotta. Ma quelle appunto sono due cose che appunto più c'è attenzione, più c'è pagnotta. E comunque no, questa cosa però poi ti aiuta dopo anche quando poi vai nei locali, certo. E capisci che anche lì, anche se c'è un contesto più predisposto all'ascolto, all'attenzione, anche lì devi guadagnarti l'attenzione del pubblico, devi in qualche modo catalizzare, impari anche questa cosa che secondo me è molto importante dal vivo, cioè guardare le facce di esattamente, guardare le facce, guardare tenere le facce il pubblico e in qualche modo monitorare la situazione, esattamente, che non è semplice questo, che non è semplice, chiaramente a volte sono le facce che non guardano te, cioè, può capitare anche questo, però fondamentalmente essere abituato un po' ad avere anche uno spirito combattivo sul palco, cioè non hai paura, bisogna andare avanti. No, io sono non senti moroso. Ho un mix di cose, ecco, ma ci vuole un mix, secondo me ci vuole di adrenalina, di tensione, esatto, tensione emotiva che serve, esatto. È il fulcro di tutto quanto, secondo me, se, esatto. No, se vai là come mettessi un francobollo su una lettera non è così, no. Non è proprio. No. Quindi c'è stata difficoltà a costruire questo progetto. Hai avuto i musicisti ti hanno dato una mano, ma l'idea parte sempre da te, lo sviluppo sì, è sempre sì, no, tu. Le canzoni le ho scritte io, diciamo, abbiamo lavorato poi anche sull'arrangiamento, comunque abbiamo lavorato con i musicisti, però sicuramente le canzoni sono partite appunto da me, sono le canzoni che sono nate chitarra e voce, hanno preso diverse strade. Alcune canzoni hanno anche, diciamo, un'anagrafe molto diversa fra di loro. Cioè, costruiti in un momento, in altri momenti non è tutto in quel momento là. Esatto, non è la fotografia di una fase ben precisa. Anche forse la cosa che dicevi tu, che sono momenti più cantautorali, forse può anche meno. Essere ricondotta anche al fatto che comunque risalgono a periodi diversi, situazioni diverse. Sono canzoni che si sono sedimentate, diciamo, un po' negli anni. Erano molte di più le canzoni che avevo. Avevo fatto un demo di quasi 20 canzoni, ma ne avevo ancora altre. Quindi l'idea di la scelta dei pezzi non è stata tanto quelli più belli, ma anche proprio quella di dare un'immagine eterogenea quindi di quello che potessero quindi essere. Quindi un tuo vestito in tutti i sensi. Esatto, proprio da scarpe fino a. È una cosa, no. Cioè, beh, è una cosa positiva. C'è la tensione, la voglia di fare, la costruzione, la difficoltà nel costruire, ma poi è bello vedere un disco tuo pubblicato. È una cosa meravigliosa, penso. Sì. Raggiungere quello scopo, arrivare finalmente al top. Sì, chiaramente anche il pubblicato è una cosa che poi alla fine. Sì, è emozionante avere il prodotto finito e farlo ascoltare agli altri. Certo. E avere, sentire le impressioni e anche misurarsi con il giudizio che possono essere amici, conoscenti o anche di sconosciuti, riviste. E anche le critiche sono state positive, decisamente. Le critiche sono state, sì, positive. La cosa mi ha fatto molto piacere che ci siano state diverse critiche positive, perché appunto uno vorrebbe sempre dire, in realtà è così, uno va per la sua strada, scrive le canzoni, le fa e pensa di aver fatto il lavoro nel modo migliore, e a quel punto ci si racconta, anche se arriva qualcuno e dice non vale niente, tu però sai che hai fatto qualcosa, però in realtà invece serve che qualcuno serve, ti dica. Certo. Poi c'è anche chi insomma può dire non mi è piaciuto, però fa parte del gioco, fa parte del gioco, ognuno dice la sua. Ma se il gioco è abbastanza positivo, quasi totalmente positivo, esatto. Anche se qualcuno dice non mi è piaciuto, è uno, ci vuole anche quello per ci vuole carità, anche però quello, esatto. Tutto fa brodo, come tutto si dice. Fa brodo. Ok, cominciamo ad aprire la finestra, a sentire qualcosa. Abbiamo un pezzo in scaletta dal disco. Che pezzo hai scelto per iniziare la scaletta? Ma io inizierei con il pezzo che apre anche l'album, che è Indifferente, la prima traccia, e appunto è lì al primo posto, anche perché... È stata la prima o no? Come? È stata la prima come anzianità di... No, come anzianità no, però è stata per molto tempo il brano con cui aprivo i concerti, oppure la prima canzone che facevo ascoltare quando qualcuno che non conoscevo mi diceva fammi ascoltare un tuo pezzo. Era un po' la canzone di cui ero molto sicuro. Quindi un tuo biglietto da visita, possiamo dire questo. Sì, ero convinto di aver scritto una bella canzone, quindi era la prima che suonavo. Poi... Okay. No, perché no? Adesso la sentiamo, sicuramente è una bella canzone. Rock Wave, l'onda del rock. Oggi sarò tutto quello che tu non volevi. Oggi farò come se non ci fosse mai stato ieri. Oggi sarò solo i miei sospiri senza. Oggi farò a meno dei motivi, sarò solo il mio presente. Oggi farò come se lo specchio non ci fosse. Oggi sarò la mia libertà repressa. Oggi riuscirò a dire quello che mi va. E se non mi ascolterai, non potrai nemmeno dirmi di no. Mentre tutto sembra indifferente ai miei sforzi, io vorrei che fosse indifferente ai miei limiti. E oggi farò come se il muro non esistesse. Oggi romperò le tue carezze in uno schianto. Oggi la mia vita cambierà solo un secondo. Sarò io la mia certezza più vicina. Mentre tutto sembra indifferente ai miei sforzi, io vorrei che indifferente ai miei limiti. Mentre tutto sembra indifferente ai miei sforzi, io vorrei che fosse indifferente ai miei limiti. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, Vern, dobbiamo fare una cosa fondamentale, salutare la nostra redazione al femminile, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che danno una mano fondamentale per la costruzione di tutti i programmi nostri di Rock Wave. Abbiamo parlato di questo pezzo decisamente accattivante, proprio sei un cantastorio, un chansonnier in questo momento. Sì. È venuto fuori da quei lunghi momenti, da quei lunghi viaggi, da quelle costruzioni sonore che tu hai costruito, che hai fatto, che hai portato avanti. E, sì, in realtà questa qui è una canzone che avevo... è nata molto istintivamente, è nata una mattina, è nata da un'improvvisazione e da un amico che mi ha incoraggiato a registrare il pezzo, e così è nata la prima bozza. Poi appunto è stato anche uno dei primi pezzi che ho in qualche modo ritrascritto da un'improvvisazione, cioè l'avevo registrato su un Walkman, me lo sono in qualche modo riascoltato e poi ho cominciato a lavorare un po' di cesello sul testo, e quindi dopo la prima un po' idea di canzone che già c'era già l'idea di strofa, l'idea di... E come costruisce un pezzo Verne? Come lo crea? Come nasce un pezzo di Verne? No, non ho un metodo appunto... Non è un metodo, non vero metodo che proprio. L'avevo dato. L'unica cosa appunto che sto cercando di far diventare un metodo, ma anche quello non è un metodo, ma credo che sia molto importante, è quella di scrivere le parole e le musiche assieme. Ah, cioè, ho capito. Scrivere le parole cantandole, non scrivendole a parte. Però anche qui per questo ci sono un sacco di eccezioni. In questo... Non fai come Battisti Mogol, che prima Mogol scriveva il testo, infatti... gli dava Battisti, sentiva il testo e via. E infatti c'era questo famoso metodo di Battisti Mogol, che Battisti scriveva le canzoni in finto inglese. Esattamente. E poi dopo Mogol le riprendeva e... Le elaborava lui, eccetera. E che fa capire appunto che è in realtà non esiste ogni metodo appunto può raggiungere dei risultati validi, però appunto in alcune canzoni ho avuto la fortuna di far nascere in modo molto istintivo testo e musica, ma anche quando non è successo provavo a ricantarmi appunto la canzone, magari partendo da un finto inglese o da dei versi senza animaleschi, però appunto è come se cercassi più che altro di far nascere la parola dal suono, e sempre non... con la chitarra chiaramente li costruisci i pezzi. Sì, li costruisco sempre con la chitarra, cioè ci sono stati alcuni pezzi che sono nati da delle strimpellate di piano che però non sono entrati nel disco, anche perché io sono un pessimo suonatore di tastiere. Ah, quindi... per le tastiere però le usi qualche volta. Le tastiere le ha usate nel disco molto Giacomo Fiorenza, e secondo me le ha usate anche bene. Mi piace molto bene, mi piace molto l'uso che ha fatto delle tastiere, dei vibrafoni e... creando appunto forse quel colore, anzi sicuramente quel colore ai vari pezzi che nel disco mancava, perché queste canzoni dal vivo, prima di essere registrate, le avevamo presentate dal vivo, soprattutto in trio, quindi voce, chitarra, basso, batteria, formazione. E chiaramente c'era un mood molto più acustico, molto più, come dire, proprio da live. il disco aveva bisogno forse di quella, esattamente, di quel colore. Ricordiamo che Giacomo faceva parte, è stato produttore di Yuppie Flu, quindi un gruppo decisamente importante nel giro bolognese. Tu abiti a Bologna adesso. Yuppie Flu è un gruppo emergente, molto interessante, molto, molto significativo. Sì, sì, sì, è stato una band sicuramente molto importante. Hanno fatto anche hanno avuto anche una certa longevità, nel certo, senso che certo, hanno fatto un ultimo disco qualche anno fa. Sì, esattamente. E sì, io in realtà Giacomo appunto è un produttore che ho scelto, pur non avendo un'etichetta che mi imponeva delle scelte, ho fatto una mia indagine un po'. Ah, così hai trovato. E quindi chiaramente poi ho dovuto anche fare un po' di lavoro di convincimento e di, come dire, di pressione. E beh, quello sono un carattere abbastanza testardo. Ah, quindi se vuoi raggiungere uno scopo vai avanti. Ok, sì, oddio. Chiaramente nei limiti del possibile. Diciamo che comunque sì, non sono, so fare il rompiscatole. Ecco, in senso positivo, positivo. E quindi avevo visto anche un po' chiaramente lo studio in cui registrava, perché adesso hanno cambiato struttura, era l'Alpha Dept, e ho ascoltato un po' i lavori che hanno fatto, che avevano lavorato appunto con anche con Multenia, lì avevano registrato Flaga Disco Pax, molte realtà comunque emergenti, cosiddette indie che mi piaceva molto come suonavano, comunque certo, i dischi, mi piaceva il suono, e quindi anche poi per un vantaggio logistico, perché certo, abbiamo un bello studio vicino certo, a Bologna, casa, quindi. E quindi la sera non c'è neanche un problema di dover di spostarsi. Visto che appunto che è un po' vicinata anche queste cose qui, ci sono degli aspetti molto noiosi da raccontare, però comunque bisogna organizzare, perché comunque i musicisti hanno tutti le loro vite, e poi, le loro cose. E c'è un discorso anche fondamentale, tu giustamente hai fatto capire, in economia. Cioè economia, perché comunque il disco è autoprodotto. Chiaramente. E l'etichetta, possiamo citare l'etichetta però? L'etichetta è praticamente nata da un'amicizia, la Pupilla Records, un'amicizia con Giovanni Ferrara, che a un certo punto ci sono state manifestazioni di interesse a alcune etichette, io ho fatto girare il disco, però le cose vanno un po' a rilento, chiaramente le etichette più importanti fanno fatica a investire sui giovani emergenti, no, anche su qualcuno che non abbia già avuto un riscontro comunque in qualche modo, anche se emergente. E quindi alla fine mi abbiamo detto: bene, ma facciamolo uscire noi. E comunque qualche piccola soddisfazione siamo riusciti a farcela ad averla, diciamo. Il disco è stato presentato comunque alla FNAC. Quindi c'è un circuito molto importante. Un circuito importante, con una bella presentazione. Poi è passato per alcune radio, video diverse radio. Anche la nostra. Soprattutto la vostra. Soprattutto la nostra. E poi, insomma, ci sono state, ha avuto critiche positive. Insomma, valeva la pena fare questo sforzo. E poi l'importante sono i concerti, i dischi non si vendono più, però i concerti c'è qualche movimento. Sì, c'è qualche movimento. E sì, e poi stavo dicendo una cosa che mi sono dimenticato. Sì, il discorso della promozione che tu hai fatto. Sì, sì, c'è anche il discorso che sì, chiaramente più persone, si creano questi circoli virtuosi, che qualcuno ascolta il disco, gli piace, in qualche modo ti aiuta. Un passaparola, chiaramente. E magari ti trova anche la serata, magari certo, ti trova. E quindi è un po' la mia agenzia di booking, gli amici, i conoscenti e comunque le persone. E per fortuna in questo anche internet dà una mano, le persone che credono in qualche modo al progetto e quindi sostengono poi il tutto, che non è mica una cosa semplice, è una cosa molto importante, fondamentale più che altro. Bene, apriamo la seconda finestra, il secondo pezzo che tu hai scelto. Il secondo pezzo, io guarda... Dimmi. Vi faccio sentire una canzone dal vivo adesso, finché c'è ancora, perché io dicevo che l'inverno mi ha colpito alle spalle. Però non totalmente, però fortunatamente. Però non mi ha finito, esattamente. Mi ha solo ferito. Quasi quasi faccio sentire proprio una canzone che si intitola L'inverno. Benissimo. Visto che siamo a tema. Ok. Vediamo un po' come... Thank you. io che non ho mai contato nulla. Come dovrei sentirmi quando mi aspetti sveglia, ed io che non mi sono mai fidato di niente. Come potrei spiegarmi ora che mi hai colto in flagrante? Ma come sempre noi ci ridiamo addosso. È solo un modo per colmare le distanze l'inverno che ci teniamo stretto. Io non pensavo fosse così immenso. Io che non mi sono mai accontentato di nulla, come dovrei reagire quando mi dici basta, ed io che non ho mai amato niente, cosa dovrei sentire ora mentre guardo l'inverno che ti fiorisce addosso? Io non pensavo sarebbe stato così bello l'inverno che ti cresce sulla pelle. Io che speravo di dirti addio proprio adesso, vorrei sentirti urlare ancora un attimo prima di venire fuori. Vorrei sentirti urlare soltanto un attimo prima di svanire ancora. Non sarei mai aspettato di vedere le labbra delle tue ferite aprirsi in un sorriso. E non mi sarei mai aspettato di vedere le labbra delle tue ferite aprirsi in un sorriso. Vorrei sentirti urlare ancora un attimo prima di venire fuori. Vorrei sentirti urlare soltanto un attimo prima di svanire ancora. Vorrei sentirti urlare ancora un attimo prima di venire fuori. Vorrei sentirti urlare soltanto un attimo prima di svanire ancora. Vorrei sentirti urlare soltanto un attimo prima di svanire ancora, ma non vuoi. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio, Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Diretta rockaway.alterlista.org. Stasera ci potete sentire e vedere Verne che sta cantando. Ah, quindi qualcuno sì, mi sta vedendo. Ti stanno vedendo. Ma se lo sapevo mi aggiustavo un pochino. No, ma sei perfetto lo stesso. Sarà l'inverno, però l'hai superato bene in questo pezzo. Ma l'ho scelto con cura. L'ho scelto con cura, proprio su misura. Su misura per non dare oltre, però sei fatto ottimamente nonostante l'inverno. Okay, grazie. Come mai è nato questo inverno, questo pezzo? Questo inverno è nato in un periodo che definirei non proprio appunto solare, assolutamente. Stavo cercando un altro termine, un po' difficile. No, vabbè, nel senso anche i periodi, appunto, questo, diciamo che questa canzone fa una fotografia di alcune cose che erano un po' difficili. Però fondamentalmente la canzone è nata da un'idea, ecco, questa è nata da un'idea del testo, è proprio l'idea dell'inverno, e diciamo che un po' riprendendo proprio classici da decadentismo moderiano, però l'idea di dare all'inverno associare delle immagini in qualche modo contrastanti fra di loro, quindi nasce più dal testo che non dalla musica. E mi piaceva appunto questo vivere appunto mettere vicino cose che venivano viste con punti di vista diversi. Da un lato c'è qualcuno che aspetta sveglia, dall'altro uno che pensa di non contare nulla. Da un lato appunto ci sono dei mondi un po' che rimangono separati, e quindi diciamo è sicuramente non un pezzo appunto che dà forse un senso di serenità, però devo dire che poi suonandolo invece mi piace riattraversare quel tipo di sensazione un po' scura, perché io ho un po' il gusto Del dark. dell'orno, però il buio mi ha sempre un po', Ho i buchi capito. neri, eccetera. Qua in questo momento l'hai un po' musicalmente, hai tirato fuori leggermente un ritmo quasi latinoamericano, un po' di americano, latino, no, non americano, a stelle e strisce, Sì. latinoamericano. Sì, infatti chitarra e voce suona molto differente che nel disco. Nel disco è Certamente. appunto abbiamo dato anche alle sonorità quella freddezza un po' del testo. Quindi, e tra l'altro appunto questa canzone a un certo punto stavamo quasi per Ah, escluderla dalla lista, dalla lista, la perché tracklist. no, più che altro perché avevamo cominciato a ragionare sull'arrangiamento Certo. e all'inizio non eravamo del tutto soddisfatti. Poi invece ci sono state le due, l'aggiunta della chitarra elettrica e l'aggiunta della tastiera da parte di Giacomo, che Che hanno hanno dato modificato. quel crescendo alla canzone, che Che doveva essere così. dal vivo chiaramente io quando la faccio da solo la cambio completamente, gli do questo incedere appunto un po' latinoamericano che stride un po' proprio col Sì, testo, che chiaro. invece non ha niente a che fare con l'immaginario da spiaggia appunto Certo. insomma così. Però trasformandola dal vivo, è una cosa che voglio chiederti, che chiedo spesso anche ai tuoi colleghi che sono venuti qui a suonare, dal vivo riesci a trasformare i pezzi, cioè a creare un pezzo nel pezzo oppure no? Guarda, in realtà la domanda andrebbe capovolta, nel senso è più che altro in studio che secondo me Ah, ho capito. trasformi, perché comunque queste canzoni sono nate un po' da chitarra e voce. Però è la cosa forse interessante, che appunto sono nate in un modo chitarra e voce, poi in studio sono state comunque trasformate non solo gli Amplificate, arrangiamenti, ma certo. anche un po' rimontate, un po' abbreviate, eccetera. Quando poi mi sono ritrovato a tornare alla dimensione acustica, non sono tornato alla canzone come erano prima. Ho ripreso un po' gli spunti da quello che era stato il lavoro di studio, da quello che erano un po' le atmosfere che venivano fuori, e anche nel modo di cantare, in questo appunto avere una sponda in studio, che è stata in questo caso Giacomo, anche nelle piccole sfumature, Ti ha dato una alcuni mano, pezzi ti ha dato che. un input giusto. Sì, è quel feedback che magari un pezzo che prima lo cantavi con la voce un po' più sparata, ora lo canto un po' più sottovoce. Per esempio, io questa canzone che ho cantato d'inverno, prima tendevo nell'inciso a dare molto, a spingere molto con la voce. Invece ora sono tornato a prenderla in una. A dare un Dimensione tono più intimista, esattamente più diciamo. intimista, ti fai E trasportare, lo no? sento molto più giusto questo tono. Quindi è anche interessante come sì, lo studio cambia i pezzi e poi dal vivo in qualche modo il percorso che le canzoni che hanno fatto rimane, c'è qualche ruga, qualche segno, comunque ruga, insomma, si sente il percorso che la canzone ha Nel fatto. cassetto ci sono altri pezzi, hai detto di sì, mi Sì, pare. ci Sono dei sono. pezzi fermi là, perché forse non è giunto il momento di pubblicarli, non è giunto il momento, forse non entrano dentro nella dimensione del mio vestito, o Ma no? sì, no, in realtà no, nel discorso del disco sì, era appunto creare un insieme di canzoni che rappresentasse un po' le diverse anime del progetto. Quindi, come dicevi tu, dal vivo in realtà molte canzoni Si sovrappongono. le tiro E li fuori, tiri le fuori. tiro già fuori. E ti dico che alcuni pezzi che abbiamo tolto erano anche considerati dei pezzi forti dal Ah, ho vivo. capito. Erano, anzi, ci sono state delle lamentele. Ci sono state delle forti lamentele per alcuni brani. Ci sono alcune canzoni, secondo me, che io anche ho abbandonato un po' a malincuore. Però anche in questo bisogna essere un po'. questo disco è andato e doveva essere così, magari, cioè, è andato così, poteva essere magari anche in altri 20 modi diversi, sì, però doveva essere in un modo. Giacomo, quindi... forse ti ha dato, no, non è, non so se l'ha impostato così, l'avete impostato assieme, chiaramente un lavoro assieme, però Giacomo forse ti ha dato l'input necessario per costruirlo, per chiudere il cerchio, o no? Esatto, sì, mi ha dato l'input necessario per creare un qualcosa che non... che fosse un po' creare quel senso di distanza, ecco. Certo, poi una volta certo. creato quel senso di distanza, anche io ho chiaramente ci sono alcuni brani che volevo che ci fossero, e, però appunto mi sono reso conto che prima ero troppo stretto a certe cose, anche nel rapporto rispetto alle canzoni, certe parti strumentali che ormai le avevo suonate tante volte. Dice, no, questa parte non è possibile. Non va. Ho capito. Che prima ti sembrava invece poi ti accorgi che magari non può anche andare, però magari senza la canzone è più fruibile, è più d'impatto. Certo. Poi anche lì ci sono state lamentele, qualcuno, sai. Però quello succede sempre, che ci sono magari persone che conoscono il disco nella versione del demo e dicono, no, a me piaceva un sacco quella parte, sì, che l'hai tolta, ecco, ma non c'è, eccetera. Quindi hanno fatto anche questa, qualcuno, cioè un po' il motto, era meglio il demo, nel senso proprio una delle frasi sì, più... Sì, ho capito. Però in realtà... Il lavoro è usato così, è venuto fuori così. Sono sono assolutamente convinto che le canzoni abbiano acquistato molta... Certo. Ok, adesso ne sentiamo un'altra. Che scaletta, cosa hai scelto nella scaletta? Ma io farei ascoltare, non lo so, farei ascoltare la parte migliore, che mi piace molto. La parte migliore, la traccia è? È la traccia numero 9. La traccia numero 9. Questa canzone praticamente è stata l'unica canzone in studio. Allora, io chiaramente c'è stato appunto questo lavoro di interfacciarsi, però... Sui testi, per esempio, ho mantenuto molto le mie posizioni. Certo. E questa canzone è stata l'unica in cui abbiamo fatto delle mini modifiche alla linea melodica in studio. È stata proprio una questione di sonorità, che a un certo punto note mi sembrava molto strano al momento, e anche lì ho fatto un po' di fatica, però poi anche adesso cantandola e sentendola mi sembra più giusta. Sei stato soddisfatto più così. Giusta così. Benissimo, sì. Ok, allora. Di grande da cui ti nascondi, che fa di me un luogo sicuro per i tuoi sbagli, e vuoi da me la parte migliore e niente più. Momento che vorrei parte migliore. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo sentito questo pezzo, questa traccia numero 9. Quasi alla fine, Verne. La fine delle 11 tracce che ci sono. Sì, sì, sì, sì. Qualcuno spesso si fa questa domanda. Ma perché avete messo le tracce in questa maniera? Sono così fatte oppure volutamente messe una per una in quella dimensione, in quella posizione? Guarda, io sono, ho due personalità abbastanza schizofreniche, nel senso che faccio le cose molto a istinto e poi dopo viene la parte razionale che cerca di lavorare. Quindi fondamentalmente è andata così, che ho fatto una prima scaletta proprio durante il primo master. E poi dopo ho fatto non so quante combinazioni di scalette, però poi quella definitiva è quella lì che ho fatto, cioè c'erano soltanto due canzoni che sono state spostate. Quindi appunto proprio a caldo ho finito il lavoro del disco, pensavo questa e poi è il metodo migliore, perché poi più penso e più è più non c'è più la testa sì, l'ispirazione si allontana, però non è più come prima, cioè ci sono dei dubbi, tutte queste cose qua. Sì, c'erano alcune cose appunto che avevo molto chiare, cioè nel senso pensavo quasi dall'inizio che Indifferente sarebbe stata la prima, che Ti riprendo ero sicuro sarebbe stata l'ultima canzone. Poi per il resto mi sono fidato un po' di quel primo momento e poi ho fatto un po' ascoltare, certo. Qualche affidato. Io quando ho sentito il pezzo, il disco, ho subito scelto il pezzo che stasera tu non canti per motivi proprio di voce. Sì. E la traccia numero 3, mi pare, fammi vedere il... Scegliemi. Sì, Scegliemi, la traccia numero 3. Esatto. Mi è piaciuta moltissimo. E cantautorale sì, però un po' diversa. Questo arpeggio acustico iniziale dà un certo non so che... E mi è entrata subito in mente, ho scelto questa traccia da far sentire spesso e volentieri. È una cosa chiaramente mia, personale, sì, ognuno sceglie le tracce che più in quel momento ispirano. A me è ispirato questo. Sì, ma il disco è tutto bello, il disco è tutto pieno di facce, di dimensioni, di strutture diverse che comprano una struttura unica. E giustamente come tu avevi detto, l'aver soggiornato, passato posti diversi, ha accresciuto la consapevolezza del disco e ha accresciuto la volontà di fare qualcosa di più ampio, di più composto. Sì. Guarda, Scegliemi ha rappresentato un passo abbastanza importante nella lavorazione del disco, nel senso che chiaramente abbiamo registrato in un giorno le canzoni chitarra e voce, sono state registrate comunque dal vivo, cioè Scegliemi non ha sovraincisioni, non ha è registrata chitarra e voce, il digetto poteva essere registrata anche in analogico allo stesso modo, non ha nessun tipo di editing se non appunto quello del missaggio, ma è un'altra cosa. E quindi dopo diversi giorni che eravamo lì in studio, che comunque abbiamo lavorato su tracce diverse, registrare batterie, comunque dopo un primo approccio anche abbastanza paranoico da parte mia, che comunque volevo che il pezzo appunto fosse un po' perfetto, poi c'era il lavoro di mediazione di Giacomo, a un certo punto siamo trovati questo giorno, ok, buona la prima, insomma. Buona, è stato proprio così. Allora per me sedermi, suonare la canzone, poi andare di là e sentire e vedere che poi abbiamo fatto altre due, però abbiamo ottenuto la prima che era la migliore, che vedere il pezzo proprio nascere così velocemente, pensavo cavolo, e che soddisfazione c'hai? È stata una bella soddisfazione devo dire, perché ho detto ok, è bello anche vedere i pezzi nascere così. È chiaro che non esiste, l'idea è molto più affascinante, l'idea che il disco nasca completamente suonato. In realtà secondo me dipende dal tipo di brano e dal tipo di sonorità che vuoi ottenere. Altre canzoni come Il mio vestito si sono arricchite volta per volta ed è stato anche molto divertente questo gioco. Adesso aggiungiamoci questo, aggiungiamoci quest'altro, eccetera. Però appunto vedere proprio che appunto una canzone nasceva così in un attimo è stato comunque vedere la luce in fondo al tunnel, perché gli altri brani ancora non erano completati, erano ancora da... Quindi questa canzone ha rappresentato un po' questa cosa, ok, allora un pezzo ce l'abbiamo già. Perfetto, okay. Non è una canzone lunga, ma lunghezza non serve, è inutile in questi momenti. Una canzone giusta per quel momento là, costruita in quel momento là, fatta per quel momento là, scusate la ripetizione, però è così, dove essere quel minutaggio là e basta. Sì, sì. Questa era l'idea, sì. Secondo me. E poi c'è anche questa cosa di far respirare un po' il tempo. Esattamente. Diciamo che c'è questa un altro delle grandi autorità in studio, diventa poi il click quando cominci chiaramente a registrare gli strumenti separatamente. Devi un minimo affidarti a un metronomo. Anche ecco. Se comunque non abbiamo fatto lavori che si fanno in altre produzioni, dove comunque si spesso digitalmente viene la batteria rieditata e rimessa a click. Abbiamo lasciato molta spontaneità e quel piccolo di imperfezione che dà l'umanità. Hai citato il click, sai perché? Riprendo il discorso del click, perché ieri sera al Festival di Sanremo la conduttrice, la sì. Clerici ha citato il click dicendo: ma che cos'è questo click? Poi gli hanno spiegato che era un metronomo, sì. Cioè il click perché? Per dare l'ok per la costruzione del pezzo, è pronto, quando il click è pronto vuol dire si può partire, è così il discorso o no? No, allora, il metronomo è un po' come se fosse una sorta di bussola per la canzone, cioè chi questa bussola la fa diventare un navigatore satellitare con una zoomata ampissima, e chi invece lascia che resti quello che è. Noi abbiamo fatto in modo che fosse una bussola, allora l'abbiamo utilizzato per registrare la batteria, però la cosa molto importante è che mentre la batteria registrava, il batterista ascoltava il click, cosa che non abbiamo mai fatto poi dal vivo, gli altri strumenti venivano suonati dal vivo. Ho capito. Quindi il batterista ha comunque suonato con dei musicisti che lo seguivano nella lavorazione, e dopodiché c'era il click, che è appunto una bussola che permetteva di dare un tono. Poi se c'era, ovviamente il digitale, se c'è qualche barrione da qualche parte lo puoi aggiustare, però bisogna, se si vuole comunque lasciare un tono di spontaneità alla registrazione, bisogna comunque usare l'editing con una certa, abbiamo cercato di usarlo con una certa cautela, perché gli sbagli ci possono stare un perché pezzo. I bagli sono anche, possono essere anche belli, esattamente, possono essere per belli. Esempio, in alcune cose appunto Giacomo diceva: ma questa cosa qui secondo me va bene così, anche se è sbagliato, anche se comunque non era come la immaginavi, poi il fatto è questo: a volte lo sbaglio è una cosa che non è venuta come te la immaginavi, certo. È venuta in un altro modo, però poi alla fine no, lasciamola così. E questo però appunto poi è quando suoni completamente da solo, chitarra, voce, senza click, il pezzo già viene lì, sei proprio in mare aperto, è quell'altra sensazione, chiaramente. Però appunto se si esagera anche lì non c'è un giusto o un sbagliato, poi io non sono un produttore, un fono, ma questo discorso l'ho tirato fuori, sai perché? Perché innanzitutto è interessante per capire come si costruisce un disco. E un'altra cosa mi è venuto in mente, certi dischi di Bob Dylan che sono volutamente sbagliati nella costruzione di pezzi, perché così il grande ha voluto, così doveva essere sì, sbagliato. Sì, ci sono alcune canzoni, per esempio appunto Bob Dylan ha fatto i primi 2-3 dischi, anzi anche i primi 3 dischi in sì. realtà, chitarra e voce, quindi ci sono alcuni punti in cui effettivamente andava fuori battuta, esattamente, e però uno dice: ma che cavolo sta facendo? Però no. quella cosa in realtà ti sveglia l'attenzione sul certo, pezzo, la fuori battuta doveva stare così e basta. Sentiamoci scegli ok. Sceglimi e vedrai che inutile essere forti, non c'è garanzia che possa offrirti soltanto la voglia di piacerti. Sceglimi e sentirai il mio petto battere per sentirti nel giusto anche quando aspettando. Le catene già si muovono impazienti, i sogni non sono più sufficienti. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Sempre la supervisione in regia di Agostino, ma c'è sempre Michele che gira, che con... da vedere anche lui, chiaramente. Continua in regia e Werner fa sentire la sua musica. Questa cavalcata fino alle 24, abbiamo tempo. Non proprio fino alle 24, ma un po' più avanti ancora, sicuramente. Sì, sì. Parlavamo, mentre il pezzo andava, del tuo studio del canto. Stasera non hai potuto eseguire perché hai un po' di difficoltà, sì, sui falsetti, praticamente. Il falsetto è una cosa meravigliosa. Io amo particolarmente quei cantautori, quegli artisti emergenti che vengono qua a suonare, che danno il falsetto. Il falsetto è bellissimo, secondo me. È difficile, ma è bellissimo. Sì, in realtà, proprio facendo un po' un discorso da secchione. Da secchione. Cioè, da fare un po' la distinzione tra il falsetto e la voce di testa, che in realtà molto spesso viene indicato come falsetto. E non è vero, dopo. Il falsetto in realtà è un qualcosa che il cantante dovrebbe... cioè non è proprio il cantante professionista tecnico dovrebbe appunto usare la voce di testa, che è un falsetto sostenuto in realtà, che risuona appunto soltanto nelle casse di risonanza alte. È stato proprio questo discorso da ti vedono cosa stai facendo, quindi hai mostrato dove sono le casse di risonanza, sì, quelle appunto che e niente, no, per me lo studio della voce è stato in realtà iniziato prestissimo, però ho avuto un primo impatto con lo studio della voce da bambino, in un'ottica un po' più, come dire, ero un coro religioso, certo. Un'ottica molto di disciplina e quasi direi controproducente, nel senso che la paura di sbagliare, ecco, il bambino molto la paura di sbagliare, anche se in un coro, così. Dopodiché appunto sono nato come musicista, come chitarrista, poi presto ho cominciato a scrivermi e cantarmi le canzoni, però prima di diventare cantante ho avuto un percorso come chitarrista fondamentalmente, e poi appunto il percorso di studiare il canto è stato anche un po' un modo per ritornare in confidenza con questa dimensione che invece era molto mia e che avevo un po' perso. Quindi anche un po' riprendere consapevolezza anche un po' dal punto di vista fisico, con certi modi di fare, con la respirazione, certo, con tutte cose che appunto avevo disimparato nel frattempo, e quindi ho cercato di salvare il salvabile. Ma ecco. questo studio del canto che tu hai fatto ti è servito sicuramente quando andavi in giro per l'Europa a suonare nelle piazze. Sì, e quella è stata poi la mia prima insegnante di canto, Silvia, che a un certo punto ha detto: tecnicamente ora hai bisogno di cantare molto, e anche non mi ha detto vai per strada, però, certo, no, però. Per me appunto era già appunto diversi anni fa, a quel punto il modo migliore per mettersi alla prova mi è sembrato quello, e poi era anche un modo migliore per viaggiare, che è una cosa che mi piace molto, per conoscere altri posti, E comunque, appunto, anche proprio per imparare anche a prendere le misure della canzone, quel discorso che facevamo prima. Ma il vagabondo positivo che, come hai fatto te in giro per l'Europa, non è molto, cioè non è una tradizione italiana, tradizione. No, perché allora in Italia ci sono C'è il famoso festival che ci fanno sono tutti feste, a anche se Ferrara. comunque poi quella del busker è una cultura che appunto stride un po' col festival, nel senso, però comunque sono molto belle queste iniziative. Il basket in sé per sé è un personaggio abbastanza solitario, nel senso Certo. che gira e si organizza e si da solo un po' si sceglie il posto, eccetera. Sì, in Italia molto spesso viene associata l'idea di musica per accattonaggio. Oppure comunque musica in qualche modo non presa sul serio. Io nel momento in cui l'ho presa molto sul serio invece quella cosa, cioè mi sono anche attrezzato, ho comprato un amplificatore molto buono a pile, ho un microfono asta, cioè volevo fare dei concerti per strada, Veri e propri. Ecco, non volevo fare il simpatico, ecco. chiaramente, sì. Anche niente togliere. E comunque appunto l'esperienza più lunga e importante è stata in Irlanda, in questa Grafton Street, che poi è stata resa ancora più famosa da questo film Once, dove c'è appunto questo chitarrista Certo. che ed è una strada che appunto è in cui c'è questa tradizione di Di musica di suonare. strada, quindi c'è anche un po' la concorrenza degli altri Certo, musicisti certo. e ci si prende un po' le misure anche a vicenda. E anche questa cosa di in Italia in realtà l'ho fatto anche io, ho girato anche per l'Emilia Romagna, sono durante l'estate anche nella zona di alcune località balneari. E devo dire che ho avuto risposte sempre Sempre molto positive. positive, però appunto anche perché veniva vissuta come un qualcosa di insolito, e quindi anche questo un po' l'effetto sorpresa, cioè Certo, cosa sta facendo qui? certo. Ora comincia comunque un po' a diffondere, nelle grandi città ovviamente è molto diffuso anche in Chiaro. Italia. Ma mi viene in mente, adesso terminiamo e poi ti facciamo suonare, mi viene in mente l'altra domenica, molti anni fa, tu eri giovanissimo, Otto e Barnelli, scoperti da Renzo Arbore, erano due musicisti di Ah strada sì, che sì. suonavano in giro per l'Italia, e non solo per l'Italia, erano tedeschi loro, Ah, ok. d'origine, e sono stati scoperti da Renzo Arbore, li hanno portati all'altra domenica, sono diventati delle vere e proprie star. Poi sono scomparsi musicalmente parlando, però giravano, giravano. E un altro musicista da strada, tra virgolette, è sempre stato Edoardo Bennato. Sì. One man band, assolutamente one man band, decisamente. Sì. E poi... Ma sono interessanti perché negli altri paesi, soprattutto in Inghilterra, in Olanda, in Germania, c'è quella, non so, dico, non si parla di tradizione, c'è questo uso, sono normali, mentre in Italia è un po' più difficile Però, vederli. ecco, perché sono, per parlare anche un po' bene dell'Italia, devo dire, per esempio in Italia per questo fatto che non sia così diffusa, poi quando viene applicata, la musica di strada ha mantenuto anche un po' un maggiore carattere È anarchico, vero, diciamo. capito, sì. Mentre per esempio io sono stato a suonare anche in Olanda e lì praticamente c'è più una questione di fare un permesso, quindi devi aspettare poi Cioè, ci vuole un'autorizzazione. istituzionalizzato. Chiaramente tutto questo riguarda sempre quando vuoi fare le cose con un'amplificazione, avere un minimo di più di presenza sonora, Certo. che però spesso per il tipo di musica che faccio io, il modo in cui suono io, che comunque non è molto forte sulla chitarra, e anche il mio modo di cantare, che comunque non è una voce particolarmente sparata, è fondamentale. Quindi quando l'ho fatto in Italia, a volte appunto mi sono trovato un po' in una terra ancora Poi vergine, e di questo è stato nessuno. anche bello, anche appunto per il pubblico, che nel modo della reazione del pubblico, ma anche per una sorta di impreparazione delle Certo, autorità ad certo. affrontare il problema, Certo. ecco. Adesso noi non affrontiamo il problema, anzi ci divertiamo ancora una volta con un pezzo tuo. Cosa ci fai Ok, sentire adesso? mi faccio sentire la speranza di cambiare. Benissimo. Ok, mi tolgo le cuffie Ecco, si toglie le cuffie e partiamo. perché così sento l'acustica del. Capace di scegliere tra fede e fortuna, hai scelto di non rischiare. Incapace di scegliere tra bene e male, hai scelto giochi di parole. Incapace di scegliere tra odio e amore, hai scelto il denaro. Ma cos'è? Cos'è che ti tiene in vita a parte l'aria? speranza di cambiare. Cos'è, cos'è che ti tiene in vita a parte l'aria e la speranza di cambiare. Capace di scegliere, tradire e fare, hai scelto di stare a guardare. Chissà se è inutile fare gli eroi per chi non vuole farsi salvare. Ma incapace di scegliere tra vivere e morire, hai scelto di fare finta di niente. Ma cos'è, cos'è che ti tiene in vita a parte l'aria e la speranza di cambiare. Cos'è, cos'è che ti tiene in vita a parte l'aria e la speranza di cambiare. L'aria e la speranza di cambiare. Cos'è, cos'è che ti tiene in vita a parte l'aria e la speranza di cambiare. Blu Radio, Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo, adesso facciamo la nostra, i nostri 5 dischi da portare su un'isola deserta. Okay. Siamo stati buoni con te perché ti abbiamo lasciato pensare, scrivere, ecco, i pezzi. No, questo non devi dirlo perché io non l'ho ancora raggiunto. Allora, beh, direi che un disco che porterei è sicuramente Grace di Jeff Buckley. Grace è un disco fondamentale, epocale, sì. Un solo album per entrare nella storia. Sì. Ricordiamo che era figlio di Tim Buckley, altro musicista straordinario. Sì. Qualcuno ha detto, però Jeff lo ha superato, tu sei d'accordo oppure no? Io ho sentito Tim Buckley, io sono d'accordo perché nel senso non mi piace dire superare o non superare, però sicuramente Jeff Buckley è vicino al mio tempo e alla mia sensibilità, quindi è la musica che ho sentito più vicina rispetto a quella di Tim Buckley, che ho ascoltato in modo un po' più distaccato, certo, superficiale. E questo disco sì, è veramente incredibile per la, anche appunto anche per la varietà delle, sì, delle soluzioni melodiche, del, per il modo di usare la voce, per, poi c'è appunto anche questo tributo, questa canzone, questa cover favolosa di questo brano di Leonard Cohen, la reinventata, reinventata, sì, che io comunque sono un grande, sono anche stimato di Leonard Cohen, appunto la reinventata, e quindi un disco veramente bello. Sì, come Hendrix ha reinventato All Along the Watchtower di Bob Dylan, esatto. Jeff Buckley ha reinventato nel vero senso del termine Alleluia di Leonard Cohen. E number one, number two? Number two, io mi gioco un disco che in realtà mi ha segnato molto nell'adolescenza, anche se magari qualcuno può avere più cose da ridire, invece in realtà è un disco molto bello, è un che è Actum Baby degli U2. Ecco, un altro disco epocale, anche quello ha segnato una svolta, secondo me, per parte, sì, della io band. Penso che Actum Baby abbia avuto, ecco, nel mio modesto parere, abbia avuto lo stesso peso che può aver avuto Kid Day per gli anni 90 e può aver avuto Kid Day nel 2000. Ancora adesso mi capita di far ascoltare canzoni come The Flyer ai miei amici che erano stati fan di Rage Against the Machine, e gli dico, guarda che è vero che è stata fatta dopo dei Soundgarden, certo, però è stata fatta prima del primo disco di Rage Against the Machine, quindi non era ancora diventata un sound. Penso che sia veramente un disco pienissimo di spunti, di bellissime canzoni, di bellissimi arrangiamenti veramente mi ha fatto, avevo anche avuto la fortuna di seguire un concerto e mi ricordo che proprio sono uscito che, con il pensiero, un giorno voglio fare anche un disco, magari brutto, ma lo voglio fare. Così, un disco di svolta. Un disco di svolta, non ho mai avuto questa presunzione, però proprio la voglia di fare musica, ecco, la cosa che ti lasciano Bono, i dischi belli. Ti hanno dato l'impulso. Mi hanno dato un impulso, diciamo, sì, quindi, quindi è giusto, dai, metterli nei quei cinque dischi non è che si, una classifica di merito, così come vengono. È una classifica di importanza, ok. Fratello e figlio unico di Rino Gaetano, un altro disco molto interessante, molto importante. Io sto citando tutte cose molto note, nel senso, però sì, è un disco che riesce a coincidere l'idea di cantautorato, l'idea anche di profondità delle liriche con l'idea appunto di intrattenimento e di pop. Esattamente, stato, diciamo che, ecco, che molto avanti, era molto avanti per i tempi, sì. Cioè ancora se potesse essere stato inciso, mettiamo, adesso sarebbe ancora attuale sicuramente, sì. Un disco simile, era molto avanti Rino Gaetano. È stato capito un po' troppo tardi, purtroppo, però è stato capito, come si sa, è stato capito dopo la morte, capita spesso e volentieri, però è stato capito lo stesso e si continua a sentire e a trasmettere Rino Gaetano. Quindi Rino Gaetano. Sì, e ecco, allora cominciano un po' le indecisioni, ma io direi che un altro disco... vorrei citare adesso qualche gruppo un po' meno conosciuto, però mi vengono in mente più delle canzoni, ma direi che un altro disco che sicuramente mi ha segnato, abbiamo già citato i grandi cantautori, sicuramente Elliott Smith è stato anche un cantautore che mi ha colpito molto. Either è un altro disco che ha delle canzoni veramente di una bellezza spiazzante, come Alameda, certo. Un pezzo che mi ha spiazzato sia anche per la semplicità con cui è fatto il disco e per l'originalità della melodia e allo stesso tempo il fatto che sia molto d'impatto. E poi un altro personaggio è andato via troppo presto anche. Sì. Purtroppo se n'è andato troppo presto. Altro grande cantautore che aveva cominciato a farsi sentire, a farsi notare, aveva cominciato, sì, a farsi conoscere, però i casi della vita sono questi. E poi io direi che un gruppo che meriterebbe molta più attenzione, quindi me lo porterei volentieri per l'isola deserta, perché è un caso di gruppo appunto per il significato, quindi un disco sarebbe Fuochi Fatui d'Artificio dei Virginia Amici. Sono un gruppo tosto livornese, toscano, sono un gruppo che non fa cose facili, no, assolutamente no. Non fa cose immediate, ha fatto già diversi dischi, non ha avuto un particolare successo. Più che altro è rimasto sempre un po' distante, non però, per loro merito. Io appunto ascoltando proprio questo disco mi ha dato proprio una sensazione di onestà nel modo di fare musica, che è una cosa bella, molto bella, perché un disco percepisci questa cosa. Poi tu mi hai detto che stanno facendo un disco nuovo, Virginia Amina. Io appunto da fan li seguo e penso che a marzo faranno. Finalmente dopo un po' di tempo li spuntano fuori anche loro, sì. È una cosa molto positiva secondo me. Perché ci vogliono anche quei gruppi là, soprattutto i gruppi come Vigilana Mille, che non hanno paura di portare avanti il loro discorso. Sì, adesso sì. Si parlava molto l'anno scorso dei Zen Circus, altro gruppo importante, che si è un po' stoganato, nel senso che si è fatto sentire spesso e volentieri. L'ultimo disco è un po' diverso dalle altre, molto, se mi è consentito il termine, leggermente più facile rispetto agli altri. Sì, non, in realtà non ti dico, li conosco, ma. Li conosci, non, sì. Però non, già non i precedenti erano un po' diversi. Questo è un po' più appetibile, un po' più semplice, sempre nell'ottica della qualità, chiaramente. Sì, sì. Ma anche i gruppi italiani ce ne sono molti. Io cito i Perturbazioni, un altro gruppo che mi piace moltissimo, che è quello, un altro gruppo interessante, volutamente difficile, ma non difficile perché non è stato capito e tenta sempre di trovare un minimo di conoscenza, quello importante. Sì, sì, io sono stato un grande estimatore proprio anche del primo disco di Perturbazioni. Molto bello, molto, molto bello in circolo, e comunque è un gruppo anche lì. Vedi che c'è qualcuno che cerca di... I Perturbazioni hanno avuto anche un successo... Sì, buono, aveva un singolo agosto, mi pare. Agosto, io mi ricordo che appunto l'ho sentito anche nei supermercati. Sì, è vero, questo vuol dire indice importante, sentire i supermercati. È una cosa bella anche appunto così... Anche se in altri casi viene utilizzata come dispositivo una canzone al supermercato, invece certo, vuol appunto dire fosse tutto così, canzone al supermercato sarebbe quelli che sono un stati tema. sdoganati definitivamente sono Sono, stati i sai, Baustelle, chiaramente. i Baustelle è chiaramente un altro gruppo che mi piace E molto, adesso, forse fra un mese meno. esce il nuovo disco di Baustelle. Sì, Quindi quelli, grazie a Irene Grandi o non grazie a Irene Grandi, sono stati sdoganati totalmente. È un gruppo che è venuto fuori alla Sì, grande. penso che appunto è anche un gruppo che ha meritato proprio tutto il Sì, ha fatto tanta successo che ha gavetta. avuto, ha fatto molta gavetta e ha fatto soprattutto anche dei dischi belli, ma anche quelli molto anche immediati. Certo, È una cosa esattamente. difficile da fare, riuscire a fare contenti i critici A e il proposito, pubblico. visto che adesso citiamo Sanremo, abbiamo citato Sanremo, quel famoso pezzo che Pippo Baudo aveva escluso da Sanremo, era un pezzo scritto dai Baustelle, ebbe un successo strepitoso in Sì, estate, sì. scritto dai Baustelle per la Irene Grandi, eccetera. Sì. Sono cose che capitano, Sì, solo a ma, Sanremo no, ma io capitano. penso che a volte capita al contrario, nel senso che tutti, non so, mi sento di poter dire che questi, negli ultimi anni, questi grandi esperti che hanno selezionato le canzoni, a prescindere dalla qualità, che Sì, non mi chiaramente, sì. permetto di, cioè, oddio, non sono uno spettatore proprio fisso di Sanremo, però mi sembra che poi di questa grande valanga di canzoni, oltre a non esserci fosse una presenza di originalità e di ricercatezza, però poi non c'è neanche spesso un riscontro commerciale, nel No, senso che esattamente. molte parte di queste nuove proposte così lanciate, che hanno spesso non hanno questa fortuna di pubblico, anzi in alcuni casi dicono che poi Sanremo diventa anche un modo che sì, quei mesi dopo che hai avuto quella visibilità, Poi è però una poi tara dopo pesante da è una tara sopportare. pesante da sopportare. È difficile tornare nei locali davanti a 5 Esattamente, persone, 20 esattamente. persone, quando sei stato comunque davanti a milioni di Quello è. Sono persone. È stati. Sono difficile stati. tornare in realtà È qualche quello. È il caso è stato di volta. Negramaro che sono riusciti ad Negramaro è andare. stato un caso felice dal punto di vista del Esattamente. successo commerciale che viene seguito, sicuramente lì qualcuno ha visto giusto, Ha visto giusto. diciamo. Si chiama Caterina Caselli, quello Sì. che ha visto giusto, però vabbè. O Sì. non solo lei. In genere. Sì. Ok, visto che siamo alle 23:11, io proporrei un altro pezzo dal disco, non so se sei Sì, d'accordo. assolutamente. Farei ascoltare una canzone che è Mi vuoi, che Adesso Agostino l'ha l'ha trovata, eccolo qua, trovata, l'ha ecco, perché trovata. io praticamente devo dire le tracce e poi devo dire qualcosa, così nel frattempo che Così diamo il viaggio. tempo ad Agostino a Ecco, su questa trovare. canzone la cosa che mi piace dire è che c'è uno strumento turco, che è la bagrama, che ho comprato durante un viaggio in Turchia. È Però. uno strumento molto bello. Che suono ha questo strumento? Io l'ho sentito, però devi dirlo te il suono. Guarda, è un suono che potrebbe essere un misto tra un mandolino napoletano e una chitarra battente Ah, calabrese. perfetto. Quindi, d'altra parte, noi non siamo così diversi, così distanti dai turchi. E la cosa bella di questo strumento, che molti strumenti comunque di tradizione non occidentale, e che ha anche il quarto di tono, Cioè? come cosa che invece nella musica occidentale esiste, però anche nella chitarra la ottieni con il bending, piegando Certo. la corda. E niente, no, è stato anche bello appunto scegliere questo strumento, fare la contrattazione con i turchi, Ah, bene, insomma. sì, avete contattato, sì. Mi contattate poi i turchi quando fai un acquisto un po' importante, ma chiaramente un acquisto importante, ti offrono da bere. Quindi nel momento in cui io poi ti chiedono di cosa vuoi da bere, ti portano nel negozio quello che hai scelto e poi dopo si conclude Bellissimo. l'affare, diciamo. Così, e quindi questa poi è Mi vuoi, che insomma, quindi ha un retrogusto di Turchia, così. Perfetto, la sentiamo assieme adesso. Non ho imparato a dire no non ho imparato a dire no all'incanto, comunque non nasconderò i miei punti deboli, non ho imparato a dire no. Basta un attimo. Ma non mi hai spiegato cosa avevo da perdere, e l'ho capito solo quando ho provato a smettere. Non mi hai spiegato cosa avevo da perdere, e l'ho capito solo quando ho provato a smettere. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Diretta rockwave.alterlista.org. Mi diceva Verne, sì, ti stanno vedendo cosa stai facendo con le telecamere predisposte da Roberto Baldi, il nostro genio indiscusso, Agostino in regia. Ah, io sono dietro al microfono, quindi comunque non ma ti vedono lo stesso. Agostino in regia, quindi, e poi c'è Alberto che segue la programmazione e anche il fotografo stasera, il nostro fotografo ufficiale stasera. Quindi non c'è scampo. Non c'è scampo. Non c'è scampo. Ok, parlavamo del pezzo mentre andava, a microfono spento. Questo pezzo che cresceva di momento a momento, questa bella strumentazione, questo bello arrangiamento fatto da Fiorenzo. Sì, no, la realtà Giacomo in questo pezzo ha aggiunto, ha fatto l'aggiunta delle tastiere finali. Poi per quanto riguarda l'arrangiamento di chitarra, batteria e anche l'arrangiamento di bagrama, questo strumento turco che hai contattato è più o meno il concetto che avevamo già nel demo, diciamo, quindi è stato in qualche modo affinato nelle sonorità, non direi tanto nell'arrangiamento. E sicuramente abbiamo lavorato con Giacomo anche sui cori, quindi questa maggiore musicalità, dare una maggiore musicalità anche quindi alle voci. E niente, poi sembra che sia piaciuto anche al tuo collega della radio. Sì, esattamente, dobbiamo citare che Alberto ti ha messo in classifica, nella nostra classifica di Rock Wave, e quindi decisamente è importante, è piaciuto a me e è piaciuto a lui, soprattutto a lui perché ti ha messo in classifica, ma è giusto la nostra classifica. Mi ha fatto piacere, è bello, è positivo. Classifica in cui... è positivo. No, infatti è stata una bella soddisfazione. E niente, quindi... Sì. Okay. Dimmi. No, sì, sentivo un attimo fischiare. No, quindi questa canzone, l'orchestrazione un po' è importante per l'orchestrazione. È abbastanza fedele, sì, anche a quello. Ma è importante perché come abbiamo detto prima, cresce momento in momento fino, dico al finale, però cresce, si fa sentire, vuol dire che si sente fatta bene, è ispirata, mi è consentita l'espressione. Sì, a me piace anche questa parte qui, che appunto c'è cioè una parte, diciamo, tra virgolette, un po' noise, in cui si perde il filo del discorso, le chitarre sono un po' distorte e appunto siamo riusciti comunque a tenerla abbastanza naturale anche sul disco, mi sembra, certo, con due chitarre, diciamo, che vanno un po' a fare un effetto un po' stereoscopico. Sì, stereoscopico, esatto. Citiamo un momento il tuo sito. Allora, il mio sito è www.werner.it. Werner, dico sempre, con la V di Verona, di Verona, che qua viene non troppo lontana, quindi non a tedesca. E sul sito si trova anche il link a MySpace, che è myspace.com/vernermusic. Dal sito si può anche, volendo, ordinare il disco per chi volesse. Questa è la copertina del disco che è curata tutta da Werner, ecco, facciamo Ecco, sì, vedere. la No. fotografia di un mio Ecco, amico adesso Fabio. la fotografia del tuo amico che è La, di un aereo, mi pare. sì, un aereo, sì, un aeroporto. Ecco qua. Ti stai dicendo di girare, Ecco, ecco, ci va sei bene? quasi. Ok, gira 180 gradi. Ecco, perfetto, adesso si vede. Ok. Benissimo. Questa è curata tutta da te, con la fotografia del tuo amico, quindi Sì, no, il in libretto l'hai realtà fatto tutto da te. sì, ho fatto creato anche la parte grafica perché appunto mi divertivo, ho detto, Proviamo. sì, mi faceva Anche piacere. giustamente perché bisogna fare così. Di Sì, no, c'erano anche, no, mi sentivo farlo. di farlo, diciamo, quindi insomma, ho detto, Bene. abbiamo fatto un po' di esperienza, sono impazzito un po' dietro anche a questo, però è andata, non mi sono Adesso mai ti senti di seriamente fare un altro sentito. pezzo, allora? Proviamo, proviamo a fare un'altra Proviamo canzone, un altro pezzo, a tuo però piacimento. una canzone, visto che prima hai citato America Latina, Sì, faccio un esattamente. pezzo invece che ha più una vocazione latino, un po' più latinoamericana, che si intitola Avvenire di carta. Benissimo. Triste bellezza che non mi svegli più al mattino, il tuo avvenire di carta che ti brucia addosso non dà più nessun calore. Lingue di sapone, scivolano le parole, così che dici troppo, sei ancora più sporco tra i tuoi vari sensi di colpa, ma è triste sapere che esiste, è come sempre in un altro posto. Ma esisti, io sto immaginando tutto, come sempre, come sempre. Suona la sveglia e mi sbatte giù dal letto. Soltanto un attimo prima ero lì che sognavo, adesso sono qui a sudare. Suona la mia ora, è l'ora di andare via, di fare terra bruciata, cancellare il passato e non tornare più indietro. Ma non so resistere, se so che mi aspetti, è come sempre in un altro posto. Ma esisti, io sto immaginando tutto, come sempre, come sempre. Sai, trattenerti sembra già di perderti. Non è una mia impressione, non è una mia impressione, eppure resisto, sapendo che esiste, è come sempre in un altro posto. Ma esisti, io sto immaginando tutto, come sempre, come sempre. Ti stai scrivendo addosso al tuo avvenire di carta che ti brucia contro. Ti stai scrivendo addosso, ti stai scrivendo addosso al tuo avvenire di carta, al tuo avvenire di carta. Ti stai scrivendo addosso, ti stai scrivendo addosso al tuo avvenire di carta che ti brucia contro. Ti stai scrivendo addosso, ti stai scrivendo addosso al tuo avvenire di carta, al tuo avvenire di carta. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rockwave, l'onda del rock. Rockwave, l'onda del rock. Ok, bravissimo. Come sempre, Grazie. Werner, sei stato bravo nonostante l'abbassamento di voce che non si è Diciamo sentita. troppo, se no sembra un No, alibi. che non si è sentito, assolutamente, sei andato Sì, una benissimo. cosa che mi ha bella, che secondo me mi ha insegnato sempre il mio insegnante di canto, è che se decidi di cantare o comunque di suonare, non devi mai, perché capita mai appunto crearti degli alibi nel caso la cosa potrebbe andare male, diciamo. Nel senso che infatti spesso mi capitava, e anche spesso quando ascolto alcuni gruppi che sono ai primi concerti, che fanno battute tipo: adesso vi disturberemo con i nostri pezzi, ci sono un po' dei modi, dei preamboli per mettere le mani avanti. Però insomma stasera effettivamente qualche piccola difficoltà strutturale ce l'avevo. L'abbiamo superata ampiamente. Portate a far sentire la musica, sì. E stasera abbiamo fatto sentire chiaramente dal disco, ma chiaramente dalla voce, e quello è fondamentale secondo me. Sì, però qui è nato per questo e continuerà qui. Sicuramente per questo. Ok, quindi è un altro pezzo della tua, di questo tuo disco, che praticamente tu avevi fatto un demo precedentemente a questo. Sì, ho fatto diversi demo. L'ultimo è appunto questo demo di 19-20 canzoni. E sì, puoi anche abbassarmi la cuffia che fischia, quindi tanto non la uso. Questo, come ti dicevo prima, c'erano alcune canzoni, anche alcuni brani che secondo me appunto meritano proprio, nel senso qualitativamente non avevano niente di più e niente di meno rispetto a quelli che poi sono finiti nel disco. E poi appunto c'è la canzone che invece ci tenevo che ci fosse nel disco, che è Il mio vestito, chiaramente la title track. Una volta si diceva così, una title track. Sì, ma adesso sta tornando sta tornando di moda, è vero. È un brano che su cui abbiamo lavorato molto in studio, però in quel modo giocoso appunto di lavorare in studio. Abbiamo usato anche gli strumenti giocattolo. I famosi strumenti giocattolo. Poi abbiamo appunto aggiunto queste tastiere, però appunto anche le chitarre elettriche nel demo non c'erano. Nel demo c'erano pochissime chitarre elettriche, invece nel disco in alcune canzoni, come appunto La speranza di cambiare l'inverno e poi Il mio vestito, entrano e danno questo tono rock che canzone... Il mio vestito è un tono rock, che tu sei fondamentalmente un musicista rock. Ma rock vuol dire a 360 gradi. Oh, sì. Va bene, sì. mi sto mettendo le mani avanti. In realtà è un brano che appunto ha sicuramente una sua incidenza rock, però è anche appunto... potrebbe anche dire, se non mi avviglierei se qualcuno dicesse no, è una canzone pop, poi sai queste cose sono un po' le dispute di genere sono un po' così, sempre un po' molto astratto, è vero, sì, ci sono delle dispute, una canzone rock, una canzone pop, è una canzone e basta, vediamo una canzone. Sì. Visto che è una canzone, la sentiamo, visto la title track, ed è giusto farla sentire. Il mio vestito comincia dalle scarpe consumate. Il mio vestito comincia da dove ho sbagliato. Il mio vestito we Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo, il mio vestito, che la title track, adesso sì. È giustamente già dirlo, perché è un ritorno della title track, è un vestito musicale molto ben fatto, molto trascinante, e tu si pensava, chiaramente si farà in futuro, a un secondo singolo, si parla ancora sì, di singolo. Sì, anche se parlare poi singolo, sai, quando ci sono produzioni così piccole è sempre comunque un po' relativo. Diciamo che mi piacerebbe realizzare un video su questa canzone, c'erano un po' di idee, ci sono stati un po' di spunti, magari prima o poi riusciremo anche a raggranellare qualche solo. Innanzitutto è importante essere riusciti a fare il disco. Sì, sì, sì, sì, sì. Dal demo al disco ufficiale, al disco completo, è una cosa molto positiva. Sta andando anche abbastanza bene, ecco. Ricordiamo velocemente chi musicisti hanno partecipato oltre al produttore. Sì, allora Saverio Quadro a batteria e percussioni, Alessandro Lomele al basso, e sì, eravamo noi tre. Voi tre, chiaramente Giacomo che ha curato la produzione, tastiere, e poi c'è stata una supervisione dal punto di vista del disco. Certo, dove si può trovare il tuo disco? Nei negozi di dischi? Il disco appunto si può ordinare dal sito web, si trova su iTunes, scaricabile, e poi si trova in alcuni negozi, per il momento a Bologna, al Disco d'Oro, a Caserta, e a Roma alla Fnac. La Fnac. Alla Fnac e anche alla libreria Tra le Righe. Comunque viene aggiornata sul sito, si trova tutti i contatti, arriva ovunque, mi è arrivata qualche ordinazione, devo dire, ovviamente da amici conoscenti, ma anche dall'estero, bene. Quindi, insomma, quindi cosa molto positiva. Devo dire che appunto internet da questo punto di vista aiuta, e certo. Potenzialmente quindi... è accessibile, diciamo. L'etichetta è la Pupilla Records? La Pupilla Records, appunto, che Pupilla viene più da bambina piccola piuttosto che non da Pupilla del Locke. Poi ci piaceva un po' l'idea di mescolare questi due concetti. Certo. E sì, è un'etichetta appunto come la Pupilla è neonata, chissà, però, magari abbiamo cominciato intanto. Sì, intanto sì. Intanto no? Abbiamo cominciato col tuo album. Abbiamo oltrepassato il vetro, diciamo. Certamente. E niente. Bene, è stato molto positivo. Abbiamo concluso questa cavalcata. Questa cavalcata. Cavalcata essere un po' stanchi. No, ma è una bella cavalcata con la tua musica, sia suonando dal vivo, sia sentito il disco. Si chiama Il mio vestito. E terminiamo con un pezzo, con un ultimo pezzo che sì, tu hai scelto. Io vorrei far ascoltare come ultimo pezzo. Appunto, abbiamo iniziato con la prima canzone del disco, finiamo con l'ultima in modo molto didascalico. Benissimo. Perché penso appunto è proprio una canzone che aveva senso mettere alla fine. Ed è Ti riprendo. Perfetto, e ora grazie ad Agostino che è stato il nostro regista di stasera, grazie ad Alberto che ha curato l'organizzazione, e io sono Maurizio Calzavara al microfono, grazie a Roberto Baldi per le telecamere e Michele che ha sovrintendo tutto quanto. Prossima settimana avremo un gruppo di Bergamo in Plan de Fuga, e avremo una settimana molto complessa, avremo due interviste sanremesi, e Plan de Fuga è un gruppo di Ancona, Ioro Ferne, che si esibiranno giovedì alle ore 22. Grazie a Verne, e grazie, buonanotte a tutti. Grazie a voi e buonanotte. Rock Wave, l'onda del rock. Seguito invano dietro al rumore, dietro alle strade sole, e forse era la tua mano che non stringevo da troppo tempo, forse la tua bici che andava più veloce della mia, forse le paure che crescevano tra l'erba, il fango e la pazzia. Sento da dietro le finestre mi mancherà quest'aria fresca, e sono soltanto io, le nuvole del sole ad arrampicarsi sui capelli, ma sono io che mi riscaldo solamente quando ti guardo, sono io che non arrivo in tempo e che mi riconosci a stento. Thank you. sono io che non colgo l'attimo e resto fermo o reagisco troppo tardi. Sono io che non ti voglio e ti rimpiango e ti riprendo. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back.